Quando potevamo fare a meno di guardarci, non si torna all'alba di questa mattanza. Quando il cielo era azzurro come l'ignoranza, non si può tornare all'istante prima di mischiare la mia anima con la tua vita. Non si torna al freddo delle notti avare, non ho voglia di cantare, voglio solo urlare. Delle mie certezze, se non fossi la regina delle insicurezze, ti potrei anche dire che si può tornare, ma davvero non c'è niente che io possa fare. Non ci sono santi, neanche in paradiso, per chi cerca di sfuggire al proprio destino.